Calenda maia ni fues de faia ni shodos ei ni flors de glaia. Non es camplaia pros dona gaia trocunis ne message raia. Del vostre bei cor quem retraia. Placerno vei camor matraia. E giaia entraia vas vos domna veraia. E giaia de plaia gelosans quem estraia. Ma beia mia perduno sia che giogeros de mondan ria. Che car vendria sa gelosia sia et aus dos amans partia. Che gioio ios ma no seria. Ni gioio se vos pro non tenria. Tal via faria com giome non veria. Se dia morria donna proscius perdria. Dona Grasida, che explose crida vostra valor che s'abellida. E chius oblida, pompli valvida, per chius azzordo ne servida. Ma per censor vos aiciozida. E per meior de pres complida. Blandida, servida, gensesque rex edida. Bastida, fenida, menglesa il estampida. Thank you. e per gelosia irrita. E io voi la regina mostra che ne sia amorosa. Alla via gelos, lesanos, lesanos, ballar entre nos. E la fe per tuo mandar, io non si agisca alla mar. Io usse l'anima che la, io che ti non venga a danzare in la danza gioiosa. Alla via, gelos, lesanos, lesanos, ballar entre nos, entre nos. Chi tu non fese danzar? E io. E su suo cor di portar? E io. Ben potrà dir di verità? E io. Che il mondo io sapar la regina gioiosa. Alla via, gelos, lesanos, lesanos, ballar entre nos, entre nos. Le rege mes amours, amie Savonot.